E adesso ragazzi, buonasera, vi presento a Pino G8. Pino G8, penso che però mi offrai un po' di caffè, penso, no? Quel caffè buono, diciamo che tu... Sei un debrecco, ma vuoi cacciati di così buono! Oh, salve a tutti, voglio una cosa pazzesca. Oggi siamo in diretta dall'Arenella, senza supporto esterni, comprese le sanizie, protuberanze di Maria Francesca, qui va il mio primo... più caro e incredibile bacio e saluto per parlarvi di come la gente vede l'occulto in occasione della fera dove ci sono magheggi, magherie, caserecci, cose, ortelegge, non ci capisci, no cazzo, in programma a caricchio per il fine settimana. Per Francesco non parlare stasera, testa ci sono stato in gugno due scaffe, andiamo a parlare con questa simpatica vecchia legge. Signor, lei sa che non sta Davos. Mangia tata, che conde! Secondo me, si ingravato, figlici! Ma che faggirano su questa chiesa? Non lo vengo mai secondato! Vattene a covera, va, vattene a covera! Evidentemente, la signora non ha afferrato il concetto quando si teneva a borsetta, stinta forte, forse chitarra con gli muovi a pensare alla posta centrale. Proviamo a chiedere a questo ragazzo alla moda, Baldo Giovane, va! Baldo Giovane, vieni qua, ci scusi, Baldo Giovane, ma... Ha saputo di questa fiera del paranormale a caricchio? Ma chi bocchi su non manco vero, mo? Avessi a caricchio per viaggiare o iardo? Basta parla, vecchio, senti a me. Nasirekis, c'è tanta gente che para normale, ma tutto para che tenne che normale, no? È proprio nel mondo dei sogni, va? C'è stato sicuramente un fraintendimento. Comunque mi segno proprio sbagliato. Avevi adesso l'uscita a cazzo, cazzo su guaglioni. Mamma mia, queste cose tu paranormali che mi fanno fare una notte. Io pigliamo per la lata era meglio. Comunque proviamo a chiedere a quest'altro dall'aspetto sportivo. Questo adesso è uno che sa sente, sa vende, secondo me che sei bravo. Per Francesco, aspetta un attimo, fermello, buongiorno. Lui proviene da Caricchia, quando vedo per come si è vestito bello sportivo, ha visto il padiglione dedicato alla misteriosa cittadina Rennes de Chateaux. Rennes de Chateaux. Ci stiamo in Egitto non parlare ciò, lasciami perdere che è perso una scommessa per un cazzo di collo. Oh, è perso un pari mila euro, tu fessi. Il prossimo che mi dici, quindi la cana scommessa, le zombo un po' delle parcheggi di mani e tanti il caccio quando viene a Natale. Comunque, se fosse per me, andrò primo tempo e ho per il secondo e ho avuto una soffiata, in due ricchi però. Oi zè, baci tranquillo che ora perde. Ok, abbiamo capito, chiediamo... che non è cosa, ma vieni, stai proprio senza Maria Francesca. Aspetta che la chiamo un attimo. Ma no, Francesco, per poi venire un pari di maccarrone casaglio. C'è proprio fidanzato tu? Babbo, pazienza. Ciao a tutti da zio Pino e da Pier Francesco e da fango a puttane sotto questi cazzo di servizio. Diamo! Diamo! Soca! Avevo capito. Babbo, ciao.